Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Inizia la settimana, inizia come sempre con un appuntamento consueto insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, Carlo, oggi parliamo di un fatto che state seguendo, ma che ci dà lo spunto per parlare di come sono messe male le nostre strade, le strade normalmente comunali, no? Anche quelle provinciali, che non hanno forse la giusta manutenzione. Sì, esatto, parliamo di una rotonda molto famosa di Mestre, però il ragionamento vuole proprio coinvolgere un po' tutti gli ascoltatori per spiegare cosa accade quando, a fronte di certe condizioni sfavorevoli automobilista, il manto stradale diventa una trappola e questo determina degli incidenti o dei danni alle vetture. Pensiamo per esempio dalle buche ai manti scivolosi, a segnaletica che è poco chiara, cadute di rami, oppure anche proviamo a pensare una mal manutenzione dei manti stradali e che quindi anche in generale possono indurre anche i ciclisti, per esempio, come le auto nel caso di questo incidente che sta seguendo l'Adico, a far sì che chi è chiamato in causa si assuma le proprie responsabilità ed intervenga anche a riconoscere i danni che un automobilista o un pedone o un ciclista può trovarsi coinvolto o subire. Ecco, nello specifico raccontaci un po' questo fatto singolo e poi allarghiamo il discorso. Sì, nel caso specifico c'è una rotonda pericolosa già segnalata anche da parte nostra agli uffici del Comune di Venezia, la quale qualche giorno fa ha visto verificarsi l'ennesimo incidente. C'è una vettura a 30 km orari circa, ha perso il controllo, è finita in fossato, ha fatto oltre 3.000 euro di danni, la signora si è fatta male e quant'altro. È una rotonda che si trova in situazioni molto pericolose perché hanno iniziato dei lavori di riasfaltatura che poi anni fa che poi non hanno più ultimato e che quindi di fronte a certe situazioni in cui soprattutto la pioggia le determina, quindi pericolosa e molto scivolosa questa rotonda. E nella specie con questo evento noi abbiamo lanciato questo appello anche al Comune, stiamo accogliendo tutte le persone che in questi ultimi anni sono rimaste vittime della rotonda e vogliamo promuovere una richiesta di risarcimento nei confronti della pubblica amministrazione. Però dico anche che non è l'unico caso, perché l'Adico c'ha anche altri casi che sta seguendo di persone che sono inciampate sulle radici degli alberi di marciapiedi, oppure anche di segnalazioni confuse che hanno creato appunto incidenti e che quindi hanno visto come vittima il cittadino inconsapevole. Ecco, cosa succede e cosa bisogna fare? Allora, se capita una cosa del genere, magari troviamo una grossa buca, ci finiamo dentro, spacchiamo la bicicletta, cadiamo per terra o peggio ancora, insomma, ci facciamo molto male. Sì, spacchiamo la bicicletta, possiamo rompere l'asse di un'automobile, possiamo deformare un cerchione, possiamo veramente farci anche male. E addirittura abbiamo persone che si sono rotti il bacino cadendo malamente. In questi casi comunque è importante raccogliere più documentazione possibile, quindi fotografie, testimonianze, eventuali referti di pronto soccorso. Dopodiché il consumatore deve sapere che in funzione del tratto stradale interessato c'è chi è chiamato a risarcire. Le strade si possono dividere per strade comunali, provinciali, almeno fino a poco tempo fa, regionali, c'è l'ANAS, ci sono poi le strade nazionali, per cui ogni tratto di strada è custodito da qualcuno. Questo qualcuno è chiamato alla responsabilità e ad intervenire. Abbiamo casi anche di rami che si sono staccati dagli alberi, sono caduti sopra le vetture, hanno rotto i cristalli. Insomma, ci sono tanti casi e sicuramente tante situazioni che i comuni o chi per esso non possono neanche pensare di risolvere mettendo dei semplici cartelli, e invece si dimostra palesemente che non c'è stato una manutenzione o un intervento di ripristino. Ecco, quindi assolutamente raccogliere le documentazioni, non lasciate perdere, ma portate avanti la dimostrazione del vostro incidente e magari chiedete aiuto all'Adico in questo senso. Sì, noi come Adico stiamo assistendo molte persone, abbiamo anche uno sportello che si occupa di queste cose. Invitiamo sempre le persone quando rimangono coinvolte magari a contattarci, perché tante volte non ottengono delle risposte positive nei confronti di chi magari dovrebbe, delle istituzioni che dovrebbero tutelarli. Tutti i comuni o enti hanno un'assicurazione, per cui è bene che chi in qualsiasi modo ha subito dei danni o si è fatto male sappia che comunque c'è sempre un soggetto responsabile. Sì, mi viene in mente proprio la notizia di lunedì scorso, per esempio, non c'entrano le strade, ma il vento forte della scorsa settimana ha fatto cadere un albero su 4 persone, provocando anche delle ferite gravi. Sì, il ragionamento non cambia, purtroppo oggi con queste dissesti finanziari e queste difficoltà di bilancio si tende sempre almeno a manutenzionare, ma ricordiamo che i proventi delle multe delle strade devono essere investiti, non spesi, ma investiti alla sicurezza e alla prevenzione e alla manutenzione, per cui tutte situazioni che quando, come ho detto, si verificano vale la pena andare a fondo, perché non è giusto, insomma, che siamo sempre noi a dover mettere mano al portafoglio. Giustamente, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori, dove si possono trovare anche i contatti per chiamarvi e chiedervi lumi. Grazie al presidente Carlo Garofolini, ci sentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.